face of our common dangers. Ich bin ein Berliner. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. He is adding troops to the war in Afghanistan to protect the homeland, to make sure that Al-Qaeda is limited in terms of its geographic... Questa è la voce di una delle donne più popolari d'America, si chiama Janet Napolitano, è addetta dalla Casa Bianca di Barack Obama a occuparsi della sicurezza interna, ha rilasciato una intervista in difesa delle decisioni espresse a Barack Obama a West Point nel discorso di martedì sera e ora dice guardate che lo sta facendo per la nostra sicurezza, cercate di capire qual è la logica che guida il Presidente. Ma è una delle poche voci così decisamente favorevoli alle comunicazioni espresse da Obama. Infatti dilaga il dibattito, il classico dibattito del giorno dopo. Ci sono delle parole di Obama che più o meno suonano così. È dolorosamente chiaro, ha detto Obama, che dal punto di vista politico sia stato impopolare ciò che ho detto e in particolare sia stato impopolare presso i sostenitori del partito di cui faccio parte. Il problema è che non è in base a questo che io prendo le mie decisioni. E per l'appunto se ne sentono, se ne leggono soprattutto di un po' di tutti i colori. C'è un bel pezzo di Peter Beinart, ex direttore di New Republic, attualmente fa l'editorialista per diverse testate, una delle voci più lucide sulla America degli ultimi anni, che giudica anche egli con severità il discorso di Obama. Dice: sì, sono state parole espresse in modo civile, ma la visione che ne esce è certamente ristretta, e poi esiste anche un obbligo morale nei confronti dell'Afghanistan che non è stato rispettato dal progetto di Obama, perché se veramente pensa di andare in Afghanistan con un contingente così grande e restarci per così poco tempo, è evidente che tutto ciò non farà altro che dissestare, no, i già precari equilibri afghani e lasciarli probabilmente peggio di come sono stati trovati. C'è poi invece tutta una ala conservatrice, anche estremamente conservatrice, che plaude alle parole di Obama, e questo fa ancora più effetto, fa certamente effetto leggere sul Wall Street Journal di oggi un articolo a firma di Karl Rove, ovvero il principale stratega di George W. Bush, che scrive che il discorso pronunciato da Barack Obama merita gli applausi, merita di essere sostenuto addirittura con grida di gioia, di giubilo. Le parole di Rove sono un incoraggiamento a Obama, dice: la vittoria può essere ancora conseguita, non sarà rapido, non sarà facile, ma con la dimostrazione di una leadership da parte di Obama tutto ciò è possibile, e adesso è a portata di mano per il presidente. Tutto questo, come vi dicevo, detto da Karl Rove, e fa eco a Rove addirittura Newt Gingrich, l'uomo che per primo dette la pesante spallata ai democratici negli anni 90, diventando speaker della Camera in pieno, no, clintonismo. Anche lui è uscito pubblicamente con una lode nei confronti di Barack Obama e delle sue parole. Ha detto: ci è voluto molto coraggio per parlare in questo modo e per dividere in questo modo i suoi sostenitori, quindi va ammirato Barack Obama. Invece, se leggete commenti di sinistra, sempre se questa parola e l'altra corrispondente destra sono parole ancora con un significato nell'America d'oggi, comunque si sente esattamente dire il contrario. Addirittura Tom Hayden, che è un vero e proprio monumento del pacifismo americano, oltre a essere stato un senatore della California, oltre a essere stato anche il marito di Jane Fonda, insomma, e comunque uno di quelli delle grandi battaglie contro il Vietnam, oggi ha detto su The Nation, il magazine per cui lavora: è venuto il momento di staccare l'adesivo di Obama dalla mia macchina. E poi c'è Michael Moore, che impara impazza a destra e a sinistra, e soprattutto impazzano anche un po' i ragionieri, no, della grande politica, della mega politica internazionale, quelli che stanno quantificando il costo dell'operazione, appunto stabilito a 30 miliardi di dollari solo per l'incremento delle truppe, che vanno aggiunto ai 130 miliardi già inseriti nel budget federale per il rifinanziamento della guerra a Kabul e in Afghanistan, con una problematica veramente seria su dove trovare, da dove far uscire questi quattrini in una America in grande difficoltà. Di fatto Barack Obama, come dire, esiste una terza lettura di cui già ieri abbiamo parlato. Barack Obama sta facendo quello che ha detto, esiste una coerenza nella sua condotta. Certamente già in campagna elettorale aveva detto che dal suo punto di vista Afghanistan era il punto caldo della crisi medio orientale, e su questo si sta ora concentrando, tentando i massimi sforzi per arrivare alla sua risoluzione. Primo piano. Good evening, my name's Wayne. Some of you may have seen me before. I hope so. I've been kicking around Hollywood a long time. I've made a lot of pictures out here, all kinds. And some of them have been western. Che meraviglia, questa è la voce di John Wayne, perché nel frattempo, nella ridefinizione, nella grande ridefinizione di che cosa voglia dire essere conservatori nell'America d'oggi, stanno succedendo delle cose certamente strane. Ve ne avevamo già accennato oggi, vogliamo dedicare qualche istante di attenzione in più, ve ne avevamo accennato ieri, qualche istante di attenzione in più oggi, perché c'è stato un articolo con un'ottima firma su un ottimo magazine, Newsweek. Il giornalista è John Meacham, uno dei più autorevoli del settimanale americano, che ha messo in piazza una provocazione che ha fatto molto rumore su tutti gli altri media americani, anche presso l'opinione pubblica. È uno degli articoli, forse l'articolo più letto su internet in queste ore, e il titolo suona chiaro e tondo: perché Dick Cheney, l'uomo che più risuona come quello che avete ascoltato pochi istanti fa, ovvero John Wayne, ovvero l'americano puro, l'americano tutto d'un pezzo, l'americano in poche parole, individualista, roccioso, ottimista, estremamente soluzionista, come si diceva una volta, uno che va alla pratica dei problemi da risolvere, li risolve e lo fa con una temperatura etica da cui non recede mai. Ebbene, perché non Dick Cheney come candidato repubblicano nel 2012? L'articolo di Meacham è molto chiaro. Si sa che Dick Cheney è uno degli uomini più odiati d'America, in quanto co-gestore, nonché considerato principale responsabile di alcune delle scelte forse più compromissorie o meno felici della gestione della Casa Bianca di George W. Bush. Però Dick Cheney rappresenta con chiarezza un'America, e sicuramente la sa anche impersonare, in un certo senso la incarna, ne possiede la logica e il discorso. Allora, quando la destra, o comunque la conservazione americana, fatica, i repubblicani americani faticano a individuare un credibile leader, e in circolo si sentono nomi di conduttori di talk show come Rush Limbaugh, come Glenn Beck, si sente parlare in modo ricorrente e probabilmente con molte gambe, no, di una possibile candidatura di Sarah Palin, quando riaffiorano campioni o supposti tali già un po' consumati come Mike Huckabee ad esempio, o Brown Beck, che hanno dimostrato di non avere il fiato lungo abbastanza per arrivare fino alla Casa Bianca, o Giuliani o lo stesso Newt Gingrich, quando un editorialista come David Brooks tira fuori dal cilindro un nome che la stessa America non ha mai sentito, come il senatore John Thune, come possibile del South Dakota, come possibile candidato per l'America conservatrice. Allora perché non scommettere con quello che, senza mezzi termini, senza compromessi, incarna quel modo di pensare, no? Stato piccolo, tasse le più piccole possibili, un certo isolazionismo, ma anche molta chiarezza nei confronti dei rapporti con il resto del mondo, tentazioni imperialiste da gestire con sapienza e in ogni caso sotto traccia. Questo è Dick Cheney. La provocazione è in circolo: un Obama Cheney sarebbe veramente un guardarsi pesantemente allo specchio, no? un vero film introspettivo per l'America del 2012. Vedremo. home I've done my time. Now I've got to know what is and isn't mine. If you received my letter telling you I'd soon be free, then you'll know just what to do if you still want me. If you still want me, tie a yellow ribbon round the old oak tree. It's been 3 long years. Do you still want me? If I don't see a ribbon round the old oak tree, I'll stay on the bus, forget about us, put the blame on me. If I don't see a yellow ribbon around the old oak tree. Buongiorno America. For the Obama family, Christmas and the New Year has always been a time to reflect on our many blessings, to rejoice in the pleasure of. Questa è la voce di Michelle che dice che a casa Obama a Natale e a Capodanno si riflette sulle molte fortune, le molte benedizioni che sono per l'appunto cadute sulla famiglia che porta questo nome. Di fatto è il primo Natale presidenziale, il primo Natale della Casa Bianca degli Obamas, e c'è molta curiosità e ve ne riferiamo in questo spazio di varie ed eventuali, no? In questo Buongiorno America, i media americani di che cosa parlano, questo è il nostro mandato, e parlano per l'appunto assai di quello che si farà a Natale a Pennsylvania Avenue. Michelle è stata prodiga di informazioni, insieme al marito daranno il via ai festeggiamenti oggi. E guardate, io ci sono stato, ho avuto la fortuna di partecipare una volta alla accensione dell'albero dentro la Casa Bianca, ed è uno spettacolone spaventoso, fantastico, prima di tutto perché ci sono tutte queste questioni di Marines che si rivestono con le vecchie divise del 700, dell'800 e passano in mezzo alla folla convenuta. Non è neanche difficilissimo entrare, tra l'altro avere un invito è alla portata un po' di tutti. Poi ci sono grandi cantate, canzoni, poi ci sono prediche di vario ordine e grado, poi arrivano, e io mi sono visto lo spettacolo con la famiglia Bush regnante, quindi in una versione sicuramente più asciutta e sicuramente meno rock and roll, qui ci sarà da divertirsi. Comunque poi arrivano le attrazioni, si canta, si balla, e soprattutto chi si diverte come pazzi sono i ragazzini. Infatti è pieno il prato della Casa Bianca, è pieno di bambini che ricevono regali, regaletti, gadget, porcherie. L'unica cosa sono quei cecchini che vedete un po' schierati tutti intorno sul tetto, ma che volete farci, del resto lo spettacolo è gratis, quindi un prezzo da pagare c'è. Comunque si accende stasera alle 23 ore italiana, 17 Washington, l'albero. Poi è stato già registrato lo special di Oprah Winfrey a casa Obama, ci porterà a spasso per la Casa Bianca degli Obamas, e sentiremo una lunga intervista con i coniugi. Poi concerti a non finire, ci saranno Sheryl Crow, Brad Mehldau, Joshua Redman, insomma ce n'è per ogni, 17 party natalizi, 11 eventi aperti al pubblico, quindi la Casa Bianca ancora ribadita come proprietà di tutti gli americani. Questa sembra l'impostazione di Michelle in particolare e Barack Obama per questo Natale, un po' all'insegna del facciamolo insieme. Now you can watch Tiger Woods being tortured in a Taiwanese computer generated reenactment. CNN ha beccato addirittura una televisione taiwanese che ha rimesso in piedi l'incidente, diciamo così, di Tiger Woods con una al computer, l'ha ricostruita al computer. In sostanza si vede un pupazzetto che poi sarebbe la moglie che prende una mazza a baseball e comincia a dare delle mazzate pazzesche sul vetro di dietro del SUV di Tiger Woods, finché lui si gira preoccupato e finisce contro un albero. È tutta qui la storia storia? No, la storia è una gigantesca questione di corna che sta esplodendo sui media americani. Lui ormai si scusa di quelle che definisce le sue trasgressioni, usa addirittura il plurale, e io un po' d'attenzione a questo farei. C'è una cameriera che si chiama Jamie Groups, 24 anni, specializzata in cocktail, che già dice che lei da molto tempo è molto amica di Tiger Woods, campione del golf planetario. Oggi c'è la conferenza stampa di Rachel Uchitel, la donna che dice che lei non è l'amante di Tiger Woods, però inspiegabilmente è andata a Los Angeles e adesso convoca una conferenza stampa. Lui ha rilasciato una dichiarazione di 317 parole in cui appunto si scusa di tutte le questioni con cui ha rovinato l'equilibrio familiare, poi il resto, la seconda parte delle parole, le dedica a spalare fango sui media che non si fanno gli affari loro. L'importante però è che gli sponsor, a cominciare dalla Nike, Gillette, Gatorade e tutti gli altri, hanno tutti confermato, commossi no, dalla sincerità di Tiger Woods, hanno tutti confermato i contratti. After a two-year saga, the trial of Amanda Knox, the American student accused of killing her roommate in Italy, could finally... E questa è una storia che noi conosciamo benissimo, meglio degli americani, ma che gli americani stanno conoscendo a modo loro, e oggi vi voglio aggiornare sulla questione. Stiamo parlando naturalmente del caso di Amanda Knox, uno dei molti nomi che possono essere usati per indicare in realtà quello che è l'omicidio di Margaret Kirshner. Ebbene, è uscito sul New York Times un articolo durissimo nei confronti della giustizia italiana e dell'Italia un po' in genere, e in quel solco di negatività che da un bel pezzo distingue i media americani in relazione a questa vicenda, a questa storia. E io ve ne leggo un breve estratto per farvi capire come da un posto diverso le cose possono essere viste profondamente in modo differente. E magari poi si tratta Meredith Kirshner. E tutto poi vada un po' ribasato, no? Bisogna trovare nuovi punti di equilibrio. L'articolo New York Times firma Timothy Egan è intitolato Amanda Knox rivisitata, è un processo al processo in sostanza, e dice: il processo nella città universitaria di Perugia si trascina da poco meno di un anno e, come le arringhe di questi giorni stanno dimostrando, il caso ha poco a che fare con le prove tangibili e molto a che fare con la vecchia abitudine italiana di salvare la faccia. Nella ringa la Knox è stata descritta come luciferina, come una diavolessa dalla mente malvagia. Ipotetiche motivazioni sessuali le sono state attribuite. Un accusatore è arrivato a speculare davanti alla giuria sull'idea che la Knox potrebbe aver detto a Meredith Kirshner, poco prima di costringerla all'orgia che sarebbe culminata con la sua morte: tu fai sempre la santarellina, adesso ti faremo vedere, adesso farai sesso. In che secolo ci troviamo? Si chiede il giornalista. Cosa hanno insegnato alle nazioni civili Giovanna d'Arco, l'Inquisizione, i processi alle streghe di Salem, quanto al tema del tutto artificioso e l'isteria sessuale colorata di demoniaco? Per molti americani questo processo è un insulto, è il più lampante esempio di manipolazione di due giovani innocenti a cui abbia mai assistito, dichiara John Kelly, che lavorò come procuratore nel processo contro O.J. Simpson per l'omicidio di sua moglie. A CNN Kelly dice: è un linciaggio pubblico basato su ipotesi sparse. Come nel sistema americano, la giuria italiana deve individuare una colpa che vada oltre ogni ragionevole dubbio. Il verdetto non deve riguardare superstizioni e proiezioni sessuali, fantasie sataniche o l'onorabilità del team di accusatori. Se non si conseguono gli standard richiesti per dimostrare la colpevolezza, il verdetto deve essere quello che ovviamente ne discende. Beh, più di così, insomma, da parte loro hanno già deciso. Staremo a vedere se coincidono, no, le cose con quanto la giuria italiana produrrà. Ne riparliamo a Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Gloria Guerrera, regia Valerio Rocchetti e Roberto Scaltritti. Buongiorno America è 324.it, replica dopo mezzanotte, diretta dopo l'1:30 qui da Radio 24. State bene tutti.